Natalità. Vabbè, Natalì. Aspetta che accodo un po'. Hola. Natale. Un attimo. Chi è che chiama? Hai chiamato tu. Ho chiamato io poco fa, ma mi hai risposto tu, capito? Siccome c'avevo il televisore alto, non ho capito chi. Franco, so. Come va? Qualche volta in pullman, qualche volta in bicicletta, qualche volta a piedi. Come tutti, dai. Novità, niente? Negativo. Domani devo andare a fare due visite agli occhi e sono impegnato in questi tempi di Covid. Ma io non siamo messo niente per l'antenna? No, non ho tempo, appena avrò 5 minuti di tempo vediamo un po'. Si sono mosse le acque o ancora tutto come prima? Non si è mosso nulla. Agnai, tutto a tacce, dai. Tutto a tacce. Adesso mi devo comprare l'imperiale per poter trasportare le scale, i vari tubi, così posso trasportare quello che voglio. Che tipo di imperiale c'hai? Io c'ho un appunto, mi serve un imperiale per l'appunto, capito? Di quelli a due stecche per poter mettere una scala, qualche cosa. Ma l'appunto c'ha quelli, come si dice, c'hanno l'incasso particolare. Io chiedo uno per l'appunto. Sì, dico, non è che deve essere il suo proprio. Qualcuno sta chiamando, chi è? Buonasera, l'appunto. Togli un po' di eco. Cos'è l'appunto? Okay. Da che parte è l'appunto? Quante porte? Quante porte mi chiedono l'appunto, Natali? 5 porte. Io c'ho per il 3 porte. L'amico c'aveva per il 3 porte. Sono diversi? Sì, cambia quello di dietro, il posteriore. Forse perché aggancia nei vetri posteriori, non so come sia. Negli effetti posteriori aggancia. Hai capito Natali? Quindi quello della 5 porte è diverso di quello dalla 3 porte, così? Sì, perché dietro c'ha i vetri quelli a compasso, capito? C'è un altro attacco. Ho capito. Ehi, vabbè, tanto comprare me lo devo perché mi serve. Però manco non aggiungo di mandarlo da nessuno. Anche io faccio così, quando mi serve qualcosa preferisco comprarla piuttosto che chiederla. Intanto succede sempre qualcosa, o si fascia. Una volta abbiamo prestato il cango, quello per elettrico, un altero elettrico. Ho usato 5 minuti, si stava sciogliendo, ho detto no, fa la cosa. L'ho rubato a mano. Perché erano di quelli che ormai li comprati da 30-40 euro, non servono a nulla. Ancora per 5 minuti era già bollente. Figurati. E infatti, per non avere problemi, siccome devo andare in campagna mia a prendere una scala, poi devo andare da un'altra parte a prenderne un'altra, e poi una me la prestano qua vicino, e così siamo a posto. Quando devo piazzare l'antenna, almeno sono sicuro che posso caricarmi la roba e portarmela via. E certo, devi essere pronto a tutto, devi avere tutto già a portata di mano, perché lì bisogna fare un'incursione. Fatto, si dice, fatto e addomo. Infatti. Avanti l'amico che non ho capito chi sia, Giovanni o Cristian, non ricordo il nome. Cristian è da parte. Chi sei, Cristian? Cristian, mi sono tutto andando a casa. Ho capito che sei esausto, sei in bara pesante, Ti sto perdendo però. Che zona sei? Zona, sicuramente zona negativa per me. Forse sei nel... Quindi non ti vedo, dai, sei nella parte bassa, quindi ti sto perdendo per quello. Comunque ancora ti tiro fuori, dai. Ma poi sono da casa, che io gli ho fatto, lavorando, un po' meno 10 km a piedi. ma è tu, scatta, tu già fa bene, io ho neanche voglia di camminare, adesso sono già quasi un mese fermo. Nell'ultima ne sono fatto roba di 100 km quasi. E già fa bene, ripeto, fa bene al cuore, fa bene alla linea, al fisico. Lo senti, Natali? Passo basso. Natale, ci vediamo dopo, dai, io faccio un QRT e poi riprendo il risultato. Positivo, Cristian. Ci sentiamo più tardi allora. Buon QRT. Alla prossima, avanti, Natali. E cosa vuoi ti dica, fra? Ma era coso che lo sentivo basso basso. Ma la Woody Woody, cazzo, ce l'abbiamo due passi e non lo sentiamo. Una vergogna siamo con queste antenne. Io una vergogna sono perché spunta un metro solo dal tetto il tubo, capito? Quando metto l'antenna nuova la tiro su di altri 3 metri. Spero di poter sentire almeno anche quelli più piccoli. No, io penso se riusciamo a mettere l'antenna sul tetto, cioè, diciamo più alta del piano del tetto, sentiamo anche Alghero secondo me. Infatti, io ce l'ho bassa l'antenna, un metro e c'è fuori, dai, il tubo, quindi rimane un po', poi sono in zona bassa, cosa vuoi, non puoi pretendere, prima se è a muro se non riesco a sentirlo al figlio di Gianni. E qui arriva, mi sembra liscio, cioè ha attaccato Santiago 3, ha attaccato lì con 80 watt che usa, mi sembra. Figurati. Quindi è logico che bisogna alzarla l'antenna. Adesso quando metterò l'antenna nuova farò un lavoro come si deve, da. Chissà. Chissà se ce la faremo, dai. Io perlomeno parlo per me. E io parlo per me, io dovrei riuscirci se campo. Fino ad allora, se non muoio prima, fra. Va bene. Come si dice, a pagare a morre ma sempre tempo. E certo che mi dispiace avere le antenne nuove qua, non averle neanche provate. A morire prima mi dispiace. Almeno una 50 anni te devi godere queste antenne, no? E mi pare a me. Minimo sindacale. C'ho tutto pronto anche per farmi un bel dipolo, gatta, la carruccia predisposta, tutte cose. E dove attacchi? Ero dopo di antenna attacco, lo dipolo, io si stava basura, la carriera. Prima che dipolo, AV invertita. E allora? Ah no, pensavo di dipolo orizzontale. Perché, per quale frequenza? Per la 27 sempre? No, e cosa? No, per fare ascolto, dai. Infatti. Io, va bene. C'è qualcuno che vuole entrare? Sento qualcuno in sottofondo, ma non lo sento bene. Sento che stai parlando, ma mi dispiace, non riesco poi per tirarti fuori. Se non aumenti qualcosa. Manco io, una giombra. Non ho capito, l'antenna? Troppo basso, sì. E non ho QRM, cioè QRM ce l'ho zero proprio oggi. Forse era ancora Cristian, che stava parlando. Qualcuno chiama Marco. Ciao, buongiorno, anzi, buonasera. Ciao, c'è qualcuno che sta chiamando a Marco. Io fino a l'antenna non è sul tetto e quindi lo sento bassissimo. Tu arrivi bene, fra, però. Sì? No, Luca sì. Via. Sono entrato solo per dirvi quello. No, te li stavo confondendo con Franco, perché c'erano tutti e due un segnalone. Io sto scendo con 2 watt. Ma vuol dire che sei favorevole qua. Invece l'amico chiamato Marco proprio non riesco a tirarlo fuori. Quello è Giovanni da Portamona e sta cercando e sto dicendo un nome che non ci siamo in frequenza, non c'è né Gian Maria e né Mario. Grazie Franco, come va? Bene, buonasera a tutti. Buona tarde. Capo. Vediamo un po' se Giovanni mi sente a me. Giovanni, negativo, non c'è Mario, non c'è Mario. Io sono Franco da Sorso. l'altro è Franco da Sassari, Natalino, Luca da Sassari c'è. Quello che hai cercato tu non ce n'è neanche uno. Figurati, nessun problema, solo che non ti sentono gli altri, capito? Avanti, Natalino. Buona tarde, ciao Franco. Ciao anche Luca, mi è sembrato di sentire a Luca poco fa, che mi ero spostato e ho sentito, forse era Luca Flipper. Ciao Natalino. Ciao Luca. Ciao anche a Luca, ben ascoltato. Avanti Franco. No, stavo parlando in verticale con la 50. Quindi non ho ascoltato. Ok, saluto a tutti, dai. Come va Franco lì? Bene, bene, bene. Se più di così si muore. Addirittura. Allora, cosa devi fare intanto? Ormai. Franco, diventiamo gialli, inteso vai. Gialli, bianchi, rossi, non tanto esserci. Già non siamo razzisti noi, da. No. Qualsiasi colore ti va bene. Bene va Natali. Va bene sì. Adesso domani devo andare a farmi queste due visite. Speriamo, devo andare poi a portare tutto al cardiologo. A Fanguarda. C'è un casino anche a fare le visite, no? Lo so. E questo è anche a pagamento, questo che devo fare domani. A chi non va via ni date, dice che non avevano date. Per quelli che sono mutuati, capito? E quindi devo pagare. Non è la solita scusa, no? Cosa vuoi? Così, col ticket non c'è caso strano. A pagamento si aprono le vie del Signore. Subito, a pagamento subito. Ti metto anche, come si dice, il tappeto rosso. Domani mi mettono il tappeto rosso, sì. Mi dicono anche buongiorno. Se invece non paghi, manco buongiorno, dici. No, devi pagare prima, se no non ti fate neanche entrare. Ci vuole, come si dice, il Green Pass, vivo me. Quelli d'accento, quelli verdi, Green Pass. Finito per dire le verità. No, avanti già. Buonasera a tutti, da. Io ho acceso poco fa, non c'era nessuno, ho provato a fare chiamata, non c'era nessuno, allora aspetta, ma sono andato al cellulare a cantare un po'. È un paio di giorni che ci sento morire, amico. Sono tutti ammalati di Covid. No, sono tutti, adesso vanno tutti quanti in altre frequenze, e quindi non sono qua, naturalmente. E vabbè. Quando c'è la gente scende, se non c'è lo fanno. Ehi, avanti Franco. Ehi, capo, ciao anche a Gianni. Un attimino, sto saldando dei fili di un microfono, mi sto aggiustando un microfono. Sentiamo dopo, vi ascolto. Avanti Gianni, ciao. Ciao, che microfono? Quello della PROC, vedo l'M, non la mano, non metto. Quello là. Eia. Cosa c'ha? Mi sta facendo lo spino? No, gli sto cambiando dei fili all'interno. Del terzo pettine, ma lo sente solo per meno. Prova che tu lo senti. Come si chiama Giovanni? Prova a rilanciarlo tu. Giovanni avanti, buonasera. Passo, sì, 3.5-4, sì. Giovanni, chi è Giovanni? Io sono Gianni, non Giovanni. Ma la sarà andata. Io lo sai che sono, cioè, vedo oltre. La sarà andata. Avanti, avanti. Io c'ho quando arriva lui c'ho io di QRM, quando arriva lui a te. No, io QRM, grazie a Dio, con questa antenna non mi posso lamentare, QRM è zero, proprio pulita pulita. E adesso vediamo quando piazzerò l'antenna, la piazzerò molto più in alto, penso di non averne QRM, perché quelle antenne dicono che sono molto silenziose. Sì, sì, con la mia, con la GBV era silenziosissima, e poi stazionari è puro al massimo, 1 e 1, proprio andando male, proprio andando male, se no non si muove in mano. No, quello sì, anche tutti i canali 1, 1 e 1 al massimo. Diciamo che è fatta bene, ma il materiale è quello che c'è, quello. Se fosse stata un'antenna in ferro che avrebbe fatto io sarebbe stata data. Sì, vabbè, vediamo un po'. Perché Gianfranco ce l'ha parecchi anni e non gli è mai successo niente a quell'antenna. Evidentemente è stata piazzata male la tua, là. Non la sapevamo piazzare, non abbiamo guardato bene le istruzioni e si è rotta per quello. Perché anche a Salvatore, quello che c'è vicino a me, che è radioamatore, anche a quello se gli è rotta l'antenna così. No, sì, strutturalmente. Ma a Gianfranco perché non se gli è rotta l'antenna e sono arrivate bufere, vuol dire che noi l'abbiamo piazzata male, Luca. Anche Giulio quanti anni ce l'ha avuta l'antenna? O ce l'ha, no, ce l'ha ancora piazzata, mi sa. Perché il vento non parte così, lì è più coperto, io sono proprio di fronte al mare, a me il maestrale mi pide in pieno, capito? Ma si dice che con la data a 160 km orario, insomma. Però come dicevi tu una volta, forse è stata messa leggermente più in fuori per mettere in tira il cavo, no? Invece vogliono gli innetti, devono rispettare gli incassi. Allora praticamente c'è la misura tra un elemento e l'altro, c'è una misura che da rispettare, quella misura noi non l'abbiamo rispettata perché l'abbiamo piazzata senza sapere che bisognava misurare quella parete, tutto lì, quindi è stato un errore nostro. Sì, quindi è probabile che sia che il problema sia scaturito da quella regolazione lì, magari innestandola un po' più in profondità la giuntura rimane più solida, a prescindere che sarebbe stato meglio diciamo una resina un po' più massiccia e più robusta, dai. Oh, fra, io l'ho vista quando si è spezzata ed è fina fina, quello è il problema, che è fino al materiale, secondo che è folata là di vento, ci sono quelle folate di colpo che vengono e poi si abbassa di nuovo, ma ci sono quelle folate di vento che la fa piegare come quando prendi un tono, la stessa cosa. Eh sì, cosa vuoi fare, purtroppo. Non sei l'unico comunque, cioè, su internet se ne leggono, non dico a migliaia, ma a decine, gente che ha avuto problemi con la rottura di quell'antenna lì. Quindi qualche problema alla base ce l'ha, dai. C'è rotta anche a Santo Tigre, a Porto Torres, rispettata anche a Santo Tigre, che è quella che ci ha aiutato, l'ha aggiustata e ce l'ha messa lì. E niente, perché l'interno è buono, capito? L'interno è fatto bene, la bobina è durata. Il problema è il materiale esterno. Infatti c'è qualcuno che gli mette un tubo più largo e lo riempie di cose, di polizia spazio, di modo che non si muova, capito? Se non prendi la parte elettrica la metti dentro una canna da pesca, che quella è buona. Salvo la parte elettrica, la bobina, non so come sia fatta, se si può estrarre diciamo la parte elettrica. Vuole doppia struttura. Tra la base, l'elemento centrale, c'è una specie di pierre che ci avvita un filo con l'altro. E poi la punta va bloccata con Aspetta che è entrato Luca, dimmi Luca. Che ci vuole la doppia struttura nella Game Master, non la puoi solo rinforzarla esternamente quell'antenna lì, quella di Sandro Tigre l'ho aggiustata io. No, lo so, io se l'ho aggiustata tu, che l'ho aggiustata, però so che ce l'aveva in più. Vabbè, comunque, a parte quello, che l'ho aggiustata, che l'ho aggiustata, che il materiale io l'ho visto perché si è troncato, è fino lì. Certe folate di vetro. Ma le mie rotte si sono, quella di Toro è rotta si è, la mia rotta si è, eppure so canne da pesca. Se tu ascoltavi già, la tua non si era truncata. Ascoltavo, ognuno dice la sua, lui, se io ho pensato, se è stata tu iscritta a un ingegnere deve andare bene, cioè è normale. Però sto a mettere i capatucci sopra l'antenna nuova, mi dava fastidio, sinceramente, perché se l'ha fatta un ingegnere, quando me non l'ha fatta bene, dai. Ma vero è che hai ricoverato? Sì, ho avuto una paralisi dopo il vaccino e ancora non mi sono ripreso, c'ho la bocca storta, l'occhio aperto, non si chiude e non si sa se si pone né a pulso. Dopo il vaccino, cioè hai fatto il terzo vaccino? No, dopo il secondo, il terzo già attaccani, guarda, mi ci stavo uscendo già. E la responsabilità, denuncia qua. E che denunce, no? Se ti fanno firmare quel modulo, secondo te per cosa te lo fanno firmare? È così, con quella firma hai perso qualche di diritto. Anche il mio collega comunque gli è venuto questo forte mal di testa, questa pressione che gli è aumentata la parte oculare. Ha preso un brutto spavento, però grazie a Dio si è rimesso, dai. Ah, io sono stato ricoverato 20 giorni, c'avevo la flebo attaccato 24 su 24, antidolorifici, antibiotici, sempre andando. Cazzo, bello spavento, eh? Avanti, chi chiama? Gianluca, avanti. Ehi, ciao, buonasera, allora. Va bene? E come ha fatto a bruciarlo? Allora gli ha dato troppo ingresso, gli ha dato. E già organizziamo, KK. Funzionava perfettamente. Avanti, a chi tocca, Natalino? Gianfranco, come mai, cazzo? Dice che ha tintesi di tutto, di Sant'Enna. Non l'hanno rimportata né niente. La sua rubia sta da me. E non si è mai fasciata, chi sei Gianfranco. Un bel biglia anche in dietro, Gianfranco. Cosa si risenti? Gianfranco prende molto vento. Sì, addirittura lo vento, l'ha pigiato lo tubo, lo tubo di l'antenna, l'antenna non l'ha fatto niente, però il tubo gliel'ha piegato. La vita non trema. E io me l'ho già segnata dove ci sono i segni dove devo mettere i tubi. Lui ha pigliato le misure e tutto. E l'ha già segnato, ma non è sbagliato. Ma un consiglio se lo vuoi, mettici un pezzo di tubo tra un elemento e l'altro per riportarlo dove piega. Grazie a una stecca di PVC, al limite glielo metto tanto per rinforzarla. Giulio ha fatto così, mi sa. Sì, Giulio gli ha messo dei pezzi di tubo tra un elemento e l'altro, in modo che la rinforzi. Sì, l'ha ingessata nei punti critici, dai. Vabbè, intanto la mia è stata già ripiazzata, perché una persona dice era rotta la bobina, dice era fatta la bobina, non so cosa sia successo. E i pezzi che si sono rotti, già. Quindi l'antenna è ancora nuova, è normale. E infatti, già si può sempre riparare, dai. Sì, vivo assai a ripararla, mi tagli un di sei facciata, la tagli e da poi vi raggiungi lo pezzo che manca. Ma stabiliare i misuri, assai vivo. E se no ti prendi un po' di vetroresina, hai quei foglietti di vetroresina, e te la riporti tutta quanta, prima di piazzarla. Fatto, non si può più smontare. No, penso di sì, devi riportare solo i pezzi, è che come fai poi a innestarla, no? Solo la parte esterna puoi riportare. Oppure ci possono mettere dei pezzi di PVC e poi bloccarli magari con il genere spasso o con qualche cosa, silicone, che cosa vi rapporto? Se dipende dal diametro, se coincide, se no gli fai un taglio al PVC in modo che possa restringersi quando poi gli metti tipo, come si chiama, del vulcanizzante, dai. Ma se li fa il taglio non te li più, se ce l'è bloccata, se li fa il taglio magari si scorda e non viene. E vabbè, tante cose ci possono fare, sapendolo io gli avrei messo delle cose, come si chiamano, dei borsetti d'acciaio, due dico di lati, ed era fatto il gioco. E come? E con i borsetti a fascetta, che rimangono a fascetta, ce li presenti che avvolgono e poi stringi. Ci sono tipo fascette, là. Sono fascette larghe, grandi. Ma non so se puoi mettere roba metallica, perché c'è scritto su queste antenne di non mettere roba metallica, dalla bobina in su, dai. Ma se c'è nella casa la fascetta, cosa bisogna mettere? E gli elementi, come credi che siamo stretti, sono sempre una fascetta. Ma più piccola così, piccoline, dai, non roba larga. Vabbè, le metti in acciaio, allora tre fascette in acciaio, come ho fatto io quando si è rotta non mi dava nessun problema, dove si è rotta non c'è più rotta, dove ho messo le fascette, si è rotta più su. Come la saldatura, dai, quando saldi si rompe sempre a fianco, non mai la saldatura. No, ma questo è l'elemento più su, capito, non è questo a fianco, è l'elemento più su si è rotto. Vabbè, facciamo girare la mattinata lì. E vedremo di prendere provvedimenti. Ma tu già sei coperto lì, Natali, perché ci sono palazzi, siete tutto gatto, mi parlo dal vento. Io sono proprio di fronte al mare, per quello che prendo quei vento. E vabbè, io provo a piazzarla bene. Se mi si rompe, prendo, gli metto una canna da pesca, cosa vuoi ti dica? Tubi di PVC, li faccio le misure e ti ribongo, così non si può più fasciare. Ma se non ti pone l'alveno, che è piccola come l'antenna, è proprio così, l'alveno, quella che c'ha Franco, lo sai quanto può? Ma Franco c'ha la cosa, la posizione, pone un pezzo di virù e verru e anda Franco. Io so che in basso, già qua, devo aggiungere 4 metri di tubo io, perché è troppo corto. Per alzarla almeno di 3 metri, da, ne lascio un metro dentro e l'alzo di altri 3 metri, se no è troppo bassa l'antenna. Ma tu mi hai sempre detto che quelle antenne lì anche da terra va, quindi dovrebbe andare anche bassa quell'antenna lì. Ma qua adesso, questa esce un metro dal tetto, no, il tubo, e quelli piccoli non li sento, cazzo, confonendo, e se dopo non sento quelli piccoli cosa me ne posso un'antenna così? Alzo, finché la posso alzare, e buf. Era buon buionaccio. Ma non la devi mettere sul tetto? E quello là non si è fatto vedere, deve essere un farfariello. Se no gli ho detto ti pago, mi dici quant'è e me la metti sul tetto. Dici a Milupazia invece non mi ha fatto nulla. Ed è quello che ha aggiustato il tetto proprio. Quel muratore che ti stavo dicendo. Così non avrei avuto più problemi. Avrà faccio un problema di chi dentro un secondo piano, che si esce a fa botte, ti ricordo un colpo di tubo di ferro a faccia. A Villa si centra. Esagerato. Avanti. Lei ha riprendato e sto facendo delle misure già. Vabbè, quindi niente, sei sotto controllo. Adesso volevo fare queste visite, queste cose e non ho avuto tempo. Appena ho 5 minuti di tempo me la piazzo l'antenna, che non devo piazzare solo quella, sono 3-4 antenne devo piazzare. Avete parlato in due? Natalina e Luca, perché fa la piacere, ma comunque è passato Luca, l'ho sentito, dai. Stava tenendo il coniglio 3 volte al giorno, capito? Ma speriamo bene, io pensavo che fosse per ormai il diabete che avevo recuperato. Perché l'ho sentito dire, ma non sapevo di sicuro se era vero o no. No, dopo la seconda dose. Quello che è proprio dal vaccino. Sì, perché mi sono informato, poi mi hanno anche detto all'ospedale che quando si abbassano le difese immunitarie vanno a fare i vaccini. A me mi si è liberato il virus dalla varicella, capito? Siccome noi non ne abbiamo vaccino per la varicella, che è nato dall'80 in giù, e così si è liberato e è salito. Ma ne ha preso persone, mi hanno detto i medici, peggio di me, mi ha anche alle gambe, a linguine, poi è... sono pericolosi questi cazzo dei vaccini, c'è poco da fare. C'è chi tocca la vuole difesa immunitaria, più passa e mi lascia le segne. Ma speriamo bene, dai, a lui. Avanti, compra. Non si dice altre cose, non ti vengono i brividi, cavolo. Io ho fatto la seconda, la terza adesso non la faccio perché ho passato il Covid, quindi la devo saltare. È un casino. E poi l'abbiamo presa tutti e tre, io, mia moglie, vaccinati, mio figlio invece non era vaccinato, l'ha passata meglio di noi. Sono io. Vabbè, e cosa vuoi fare? E io, dentro i miei figli, ci avevo la messa pure tutti quanti con la mia. Chi era Tyson che stava sbagliando? Ehi, l'ha sentito? Ehi. C'era un cane fuori sicuramente, aspetta che vado a vedere, perché quando abbaia è difficile che abbaia, se non è perché ci sono un cane o qualcosa che non va. Ehi, qualcosa ha sentito. E se no non abbaia niente, sempre allerta. Dove che ti chiama il tuo, veramente mai? Come? Ah, il mio, Kurt si chiama. Kurt, con la R, Kurt. Ehi, perché è corto, e allora l'ho chiamato Kurt. No, è il nome che aveva un pastore tedesco che avevo io. E gli ho messo il nome di quel cane lì che mi è morto, che è troppo giovane, mi è morto, mi è durato poco. Come mai è morto? Cos'è? Matto? 8 anni mi è durato, 8 anni e mucchio. Era addestrato, bello cazzo. Insomma, pochini sono 8 anni, dai. Purtroppo è andata così. Ma questo pure intelligente come quello, gli manca solo la parola. Mi dice quando ha sete, quando ha fame, quando vuole andare a fare la pipì. Noi abbiamo un gatto, lo senti in casa, ah, sorte, ti fa capire quando vuole aprirgli una porta, quando vuole da mangiare, vuole aprire la finestra per affacciarsi. Davvero, gli manca solo la parola questi animali. Il mio è intelligentissimo. Non pare manco vero. Certa gente si è stupita. Perché lui si mette a abbaiare e io gli chiedo, ma cosa vuoi? La nanna vuoi fare? E tu si cagliamuto se non vuole addormentarsi. Dico, ma la pipì vuoi fare? Come gli dico così che vuol fare la pipì subito, abbaia e muove le zampe. Tu lo devi vedere. Perché capisce che vuole, devi uscire, vedi? E io lo faccio scendere, da solo mi scende. Se scendi da solo papà ti dà il premio e gli do un pezzettino di buste. Apri la santa rasura, fa quello che deve fare e se ne sale. Una volta avevamo un bretto, uno stagno bretto da caccia, era legato nella sua cuccia, no? E rosicando quest'osso alla fine gli si è allontanato e non ci arrivava più a prendere le zampe. Beh, questa scena si è messo di lungo e con la zampa di dietro se l'ha avvicinato, perché di lungo arrivava più lontano con la zampa di dietro, capito? Perché con quelli davanti non ci arrivava. A me da se si ingegnano. C'è l'altro giorno stavo mettendomi l'acqua io, no? Per bere. Scatta, me ne viene lui e si stava leccando la bottiglia. Ah, già mai date non va via, va vero. Guarda, una cosa che non si crede. Se non l'aveva visto quello cimeno va più creduto. Sono andato e gli ho messo l'acqua per bere e subito ha bevuto. E come mai la senza? Perché me ne sono dimenticato io di guardare a vedere se ne aveva. Io ogni giorno mi pulisco tutte le ciotole, controllo se c'è l'acqua, la metto fresca ogni giorno. No, la prima cosa che faccio quando mi alza è quella, perché poi quando lui sale dopo giù, quando sale da giù, va subito a bere. Ma ti può sfuggire come è sfuggito a me, già, mi è sfuggito e non me ne sono accorto che gli mancava l'acqua, che era vuoto, la ciotola era vuota. Cata, la giocumenti la giubocciola era subito, è andata a B. Idratato viene, poveraccio. Aspetta. Prosciugato. Cioè, ma la gola felpata, come dice mio amico, quando c'ha sete che vuole bere un po' di birra. Astruccio la gola felpata, che. Ciao Barni, ci sei? Ciao Barni, ma la tazza. Non c'è più, se n'è andato deve essere, o se è bruciato il paracchino. Io lo sento a malapena, mi solleva un po' il QRM, ma sicuramente basso anche il radio. Non riesco a... Se non mai il radio l'avrei sentito un po'. Oh, stavo bevendo poco fa, no? Io ho detto, buona la tazza, come hai fatto a saperlo che stavo bevendo? Ti si piado? Vediamo se Franco ha finito di saldare. Franco! Oh, nei belli risentimenti, se non conosci il colore dei fili, io cazzo. Se non si è accorto quando avete staccato. Infatti, se si staccano dalla soldatura poi è un casotto, se ne staccano più di uno. Ehi, a Rotari si staccano sempre dai potenziometri che c'ha, quello dell'elettro e quello del volume. C'ha due rotelle sopra, no? Cioè potenziometri. E all'interno tu come tu vai a aprire il microfono, come vai a alzare la scatola per guardare dentro, ti si stacca, perché sono giusti giusti. E allora lo sai cosa gli ho fatto? Gli ho messo i fili più grossi, appena più grossi, e almeno si possono anche prendere in mano, perché lì manca saldare e faceva presa quanto era lontino. Pare di chi del treno. E poi ne ho fatto più lunghi, di modo che quando apri la scatola la puoi anche appoggiare, non si stacca. Infatti, io ho aggiustato un microfono da palmo stesso, che addirittura c'era un filo nascosto, meno male che me ne sono accorto, se no non avrebbe funzionato. E io e Franco l'abbiamo fatto uno da... c'avevo, come si chiama, l'M300, tutto all'interno di un M300, e l'abbiamo messo nella scatola di un altro, ci stava giusto, c'era il possibile di uguale. Sembrava fatta apposta. Era sicuramente la coppia dell'M300, questa scatola, abbiamo messo quello che c'avevo lì all'interno e c'è una meraviglia. Sembra che stai sentendo qualcuno. Sono fatti proprio a risparmio questi microfoni. Fili sottilissimi, a volte sono anche un po' rigidi, che si spezzano subito. Se riesci a allungarli è meglio, l'importante è che ci sia tutto dentro l'apparecchio, dentro la scatoletta. E non è che devi mettere cazzo di metri, ne metti un po' più lunghi, ma non tanto più lunghi. Intanto che tu piegandoli chiuda, capito? Sì, qualcuno qualche volta gli è successo di averlo cambiato, dai. Fa così perché quei miei mobili sono buoni con i microfoni, però hanno questo difetto che si spegne. Vabbè, nel mio mobile io gli ho messo una capsula e va alla grande, bellissimo come funziona, va benissimo. E quello del M300 che abbiamo fatto con Franco, esci dove a vivere. Esce forte davvero. Eh sì. Queste cose non bisognerebbe mai toccarle, aprirle, perché bastano un paio di volte e si spezza subito tutto. E poi io ho questo vizio che quando ho per dire i microfoni, magari nel M300 mi sarà spaccata la scatola e mi ho lasciato tutto l'interno col filo attaccato e tutto guardato. Non ho fatto altro che mettere un'altra scatola e funzionare. Questa è l'unica volta che è stato aperto per... a parte per la batteria, vabbè, non si può neanche di aprirlo. Perché si era rotta, mi sembra, una delle lamelle del PTT, quelle lamelle in acciaio, da. Ah, e di che microfono si è fatto? Di questo da tavolo, dello Shure. Ah, c'ha le lamelle come il cavo, quello lì. Sì, e beh, c'ha queste delle lamelle. Anzi, sono dei gruppi di... tipo le balestre, mi. Gruppi di lamelle sono. Non so. Il mio non andava, premevi non usciva, erano quelle, le ho mosse appena, e va benissimo adesso. Queste le avevamo tolte, mi sembra, da dei vecchi relè, di quelli antichi, quelli lamellari proprio. Sembra che stia andando ancora, non so che rumore faccia quando aggancio, non so com'è. No, è solo rumore, fa solo il pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip un piccolo tic, fa e basta. 60, però piccolo piccolo rumore, passo passo. L'MC60 lo stesso si riconosce da lontano. Perché allo stato papà. Particolare, c'è qualcuno sotto? Avanti chi vuole entrare. Ehi, adesso c'è Santiago 4, già stai andando video, dai Giovanni. Cosa gli hai fatto? Dopo questo gli hai dato una bella chiaruta. E ha fatto male l'impianto, sicuramente ha fatto male l'impianto. Basta farlo bene l'impianto, vedrai che non ti dà problemi. E non l'ha fatto con qualcuno che lo sa fare, che naturalmente. Io mi sono dovuto arrangiare la rasura, però questa macchina nuova me l'ho fatto fare, qui con l'abilità, perché non trovavo il buco per passare i figli, allora me l'ho fatto fare. E ti dirò cosa? Ma va meglio adesso, sei da 4 a 5 stai andando come segnale. Ehi, ma ti dirò di più che dove lo porta a piazzare, che piazzano, fanno impianti stereo, da putti, che già lo sai fra dove, no? E lì c'è stato un po' che a trovare il buco per farlo passare, è un casino, eh. Ha dovuto prendere attrezzi, guide, un sacco di roba per accompagnarlo, perché non ce la faceva a farlo uscire. Qui dalle parti mie? Cosa? Questo che c'è qui vicino a me, dai. Esatto. È quello che c'è accanto al fornitore. Ho capito, ho capito. Quello mi ha fatto sempre gli impianti stereo, ma non impianti da 300 watt e cose. Con subwoofer, Twitter, midrange, tutto qua. Mi ha sempre fatto gli impianti e toccavo quello forte, della Hertz, delle casse, amplificatore Alpine, stereo Alpine. Natalino già l'ha sentito come suonava. Belli erano quegli impianti lì. Il mio che rumore fa fra il microfono quando attacco? Prova. No, molto silenzioso anche il tuo. Aspetta, ti ha parlato in due. Ho detto, il tuo era ancora più basso. Il mio è più basso di Natalino ancora. Aspetta, a malapena si sente come un Natalino. E poco poco si sente. Ma proprio... Se non parli si sente, se parli non si sente niente. Buona. Ha perso un po' di potenza la lamella, le originali erano leggermente più rigide, adesso è più sensibile al tocco. Sì, la cosa di una puttana, lo sapete che va da bene, è che lo scudo è bello come esce, ma cazzo, come il microfono ha ragione, è un bel grande. Infatti si potrebbe accorciare un bel po', anche a metà passerebbe. L'avrei voluto io, Barrasone, Barrasone. E io ce l'avevo, l'ho dato. Quello lì andava bene sul Saturn Echo, una bomba era col microfono. Mi sa, fatecela a Luca, Luca. Chi è che ti ha chiuso a tratti? Giovanni, tu sei. Allora, per il ruolo, cosa? Adesso è aumentato di brutto. Chi è Giovanni? Non credo. Che se ci sono la scala? Sì, da 3 è arrivato a 9.30. Che è avanti, buonasera. Questo è Franco. Franco, Perché Franco si è messo il perizoma sopra l'antenna, è per quello che sta uscendo bene così. Sembra che fosse Giovanni che si è implantato. Da Santiago 3 è passato da 9.30. Ho attaccato l'antenna. Però senza antenna, capito. Hai capito lo stesso? Come senza antenna? Perché ho commutato, stavo commutato sull'altra radio e avevo sbagliato, per quello non mi sentivo. Che è successo anche l'altro giorno? Anche l'altro giorno ti sentivo senza antenna, sicuramente siamo vicini. Faccio commutato. Hai parlato in due. Ho detto che ho commutato sull'altra radio. Sì. Ho detto non conosci senza antenna. Che se vedo che ha consolato lui, ho già problemi, non ne ho. Questo è da combattimento, no? E questo è un apparecchio camionaro, diciamo. Ehi, da combattimento, come lo chiamo io. Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa, Fra. Guarda un po', adesso lo scatto, che non parlo. Capito? Già è buono, già è buono. No, con Franco, a Franco Binario volevo dire. Che lui sa, perché io ho salito il Mikey Gain. Ma si sente troppa roba, tutto ciò che succede in casa si sente, no, abbassa. Così va meglio, va. Amplifica un bel amplifica. È un microfono per i pella quello, capito? No, questo è un microfono da cuocuomani. È ancora meglio. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Questo è un microfono di tavola, Ciao Cristian, ben entrato. Ciao Cristian, buonasera, ben ascoltato. Buonasera a tutti. E Luca ci sei ancora? Ciao. Buonasera. Avanti, chi stava dicendo? Scaccia bene già. Chi è? Avanti, chi stava dicendo buonasera? Ma chi sei, Giovanni? Cazzo, Santiago 1. Cos'è il cacchione fatto che sta arrivando passo passo? Ciao Cristian da Giovanni. Ho finito la birra. E fa cosa Giovanni? Ma se prima eri Santiago 5, adesso sei Santiago 1, cosa ne hai fatto l'apparecchio? Se prima andavi meglio. Se tu non lo sai toccare l'apparecchio, inutile che lo tocchi, magari tu gli hai diminuito il watt, guarda a vedere se c'è scritto power, PV doppio o roba del genere, tu devi mettere al massimo quello. Ma cosa ne so? Oh, era a casa Santiago 5 e c'è da Santiago 1 adesso. Quale? Quello suo? Che apparecchio è? Giovanni, che apparecchio stai usando? Midland, ma bianco è? Sì, ho detto che colore è bianco, è da base, ho capito, vabbè, ho capito che fai il fiore. Andava bene, Cristian se ne dovrebbe vedere di più, ma non lo sa, quindi passiamo tutto a raccalino, va. Dai, io vi saluto che devo fare roba, ci sentiamo più tardi al limite. Ciao, dai. Che devo fare, la dottoressa devo farmi fare impegnativo per farmi la calfebore che mi sta facendo male l'altra parte della gamba, buia. Ma non mancano mai, dai. Da sé che ho per adorarsi, buia. Speriamo che sia roba di reumatismo e basta, che non sia roba grossa. Anche quelli sono una brutta bestia. Sì, ma se fa buone consumato ti devi operare, devi mettere la protesi, non è una prassi che dura anche un anno, non è una cosa niente. Io l'ho passata per l'altra gamba e ho fatto fisioterapia, e insomma, poi per rimetterti proprio in sesto di sesto deve passare almeno un anno. Dicono in 3 mesi sì, migliori, però non è che in 3 mesi puoi già guidare la macchina, tutto quanto, però non sei al 100%, per essere al 100% deve passare almeno un anno. E in 3 mesi riesci a camminare, dai. Sì, cammini un po' barcollato, sto piccando, ma già cammini. Però per il riacquisto totale dei movimenti ci vuole tempo. Un anno ci vuole almeno. E la mattina ti dirò che quando mi alzo dal letto, prima di prendere l'equilibrio mi devo sedere un po' sul letto e poi alzare, perché se mi alzo di corpo poi dopo torno da rito. Ma ti manca proprio? Sì, ritorni a manca l'equilibrio. Forse anche come hai dormito, non lo so. Però mi è successo un paio di volte, quindi mi sceno prima e poi mi alzo piano piano. Una volta che mi alzo ripristino tutto. Quello è consigliato anche perché è lo sbatto di pressione, capito? Te ne stai in 4-5 secondi seduto per stabilizzare un po' la pressione e poi ti alzi, perché alzati di colpo, insomma, andando avanti con l'età diventa uno shock, diciamo, per il fisico e potresti perdere l'equilibrio. Cavaca, poi va bene. Io grazie a Dio l'equilibrio già ce l'ho, però la mattina succede questo, a volte, non sempre. Può essere anche, io soffro di artrosi cervicali, quindi potrebbe essere anche questo. Butta bestia anche quella, mamma mia, per carità. Quindi che ci è rimasto, buh? Non ci sono ancora. Che belli, Cristian. Ci sono io, che fra poco vado. Io ci sono all'appello. Sei in movimento, Cristian, sì? Sì, sono a Santosola. Arrivi. sta bruciando una frusta nera che non va da Marco l'aria che respiro. No, adesso è migliorato parecchio da rispetto a prima, se ti ascolto bene. Ma sto usando una frusta che ha dato mio fratello, perché la mia antenna, la REM, mi stavano problemi di trasmissione. E controlla la bobina, c'ha? Ehi, bobina. Controlla che non ti sia risaldato qualcosa nella bobina. Questo giorno la controllo adesso, sto lavorando, non devo mai andare in bagno. Sono la controlli col tester, vedi un po' se c'è continuità, diciamo, là, tra lo stilo e l'attacco di sotto. Mi sabato me la controllo, che non lavoro sabato io. E che può capitare, qualche sellatura può partire. Mi sembra io l'avevo modificata, perché non riuscivo a accordarla nella mia macchina. Allora ho dovuto accorciare un po' la molla, la spirale, dai. Io non ho spirale, io ho proprio la carica sigillata, proprio chiusa io. Io quella lì l'ho aperta e ho tolto, diciamo, un giro di rame. Sono riuscito a accordarla sulla 27, dai. La mia è una cosa bellissima, fortunatamente, però non c'è più, proprio perché. Io invece di tagliare lo stilo d'acciaio, invece di accorciare lo stilo, ho accorciato la cordatura, dai, dalla bobina. Ci provo a farlo, dai, adesso quando sono un po' pulito, lo so, fatto domenica lo farò, dai. E poi ho risaldato il tutto, dai. Infatti poi ho cambiato macchina e non andava più bene, adesso bisogna di nuovo allungarla con la bobina. Io ho un cesso di punto, ho un piccolo amore. Va bene, mangia. Ho 20 metri di antenna, ma non in questa, nell'altra che c'avevo, nella mini tubo, perché non riuscivo a regolare il tastierale. Come l'ho tagliata, si sono regolati? Io ho provato a tagliare, ma stavo esagerando, allora ho preferito accorciare un po' la bobina. Io la faccio sempre a quadrato con il lavoro, le stazionali mi sono sempre a quadrato, vado al quadrato, mi metto al centro in modo che non ci siano ostacoli e lì te la curvi bene. Sì, zona aperta ci vuole, sì. Monte Bianchino, mica la zona alta. No, invece questa qua va già meglio, su questa macchina accorda meglio, non so perché. Ma tu stai usando la tubo adesso, la lama? Sì, però da 1,80, non è da 2 metri, non capisco perché. Stavo cercando lo stilo, e lo vendono mio, ti costa, mi sembra, per quanto l'antenna, 30 euro vogliono per lo stilo. L'antenna costa 65 euro. No, dico usata, no? Usata, la tubo sulle 30-40 euro. Non so perché questa è da 1,80, boh. Sì, ma se la prendo usata, corri nello stesso rischio che l'abbiano tagliato e ti rimetti un altro stilo che non va bene. Conviene comprarlo nuovo, lo stilo e ciccia. Anzi, io adesso devo andare da Fuggiano perché può farci il gommino. Gli metti un pezzo di termoretringente. Già fatto. Però Fuggiano c'ha i gommini brutti. C'ha i gommini della tubo, capito? Me l'aveva dato lui, me ne ha dato 4-5, adesso lo so dove cazzo li ho messi, li ho persi. Vedi, un po' incolla lì. Così devo fare, infatti. Le tolgo il termone spingente e li metto quello lì. Perché io nella macchina lo metto al fianco, l'antenna, al fianco del sedile, no? E praticamente deve essere sia agganciata col sedile di dietro e anche io quando la stacco la metto nel cofano di dietro, la piego a un po' perché non ci sta, giustamente. No, io la metto dritta, stavo sedivellata. Ma questa è 1,80, dai. Ma la metto 2 metri, cazzo. Ce l'hai tu in tela, quella da 2 metri. Allora, io ce l'ho con 2001, originale, come dalla fabbrica. L'hai misurata, è proprio 2 metri? No, non l'ho misurata, non mi sono ritrovato metri a portata di mano e non ce l'ho fatta. Se avessi avuto un metro a portata di mano ti avrei fatto anche questa cortesia, l'avrei misurata, ma già capita, non c'è più un metro della misura, per vedere quanto è. Ma sono sicuro che 2 metri non è un metro tanto, è 2 metri, perché già da quel dì era 2 metri. Eppure mi ha assicurato che non è stata mai toccata, l'ha presa nuova e non è stata mai toccata, come ti dico, non lo so. un mistero, probabile che sia nata anche così, che sia una delle prime magari. No, la prima Turbo 2001, quella delle prime l'ho avuta io, poi l'ho regalata a un amico per la stasera nel campo. Ed era due metri, e anche quella 1-1 di stazionari, di canali, no? Già a larga frequenza quell'antenna, capisci? Fa spazia di frequenza, perché non aumenta mai di stazionari. Sì, c'è una banda larga, dai. Sì, sì, è una bella antenna, la Turbo. Ti sento da tutte le parti, io senza lineare, senza nulla, coso, parlo dal Ghero, da Portotone, mi sentono sempre, la Plattamona. Ce l'hai centro capota o come? Sì, centro capota, ma con la calamita, però sempre con la magnetica. Ah, addirittura magnetica. Con la magnetica di quelle larghe larghe. Già ce l'ho, soltanto che io sopra la capota non è liscia, capito? C'ha le come si dice? Le modanature, le strisce. Ho capito. La mia, io ogni volta che la metto li butto prima l'acqua, perché ti dico e ti graffi la capotta, non è vero, se tu usi gli accorgimenti giusti non te la rubi, ti butto prima l'acqua, li passo la pelle, la asciugo bene, poi la pulisco anche sotto l'antenna, cioè io sono pignolo. No, vabbè, anch'io la tengo sempre pulita. Poi anzi le avevo attaccato uno strato sottile di gomma, ma proprio tipo quei guanti per fare i piatti, una cosa del genere. La mia anche sulla capota è base magnetica. A me nel lato si era rotta e gli ho messo il silicone nero, non si vede nulla. Deve essere perfetto il piano d'appoggio, perché deve attaccare proprio po' come una ventosa. Esatto, qui sta facendo un bel passo, ma dove sei qui? Sì, io vedo, un attimo, l'altro non c'è con l'interno. Avanti, esserci bene, avanti. E adesso se ci andiamo con 4, dai, hai migliorato. E 2 metri, comunque io sono sicuro che deve essere, poi basta guardare su internet, te lo dice. Sì, sì, su internet c'è da 2 metri, Tanto con 2001 c'ha quella misura lì, fra, non è, l'hanno tagliata, se è 1,80 l'hanno tagliata, non è possibile. E 2 metri la tua 2001, lo stilo è 2 metri. Dico, ma l'ha assicurato, io sono rimasto un po' così, un po' perplesso, dai. Magari la tagliata ce l'ha venduta lui. No, mi ha detto una presa nuova. Non voglio insistere, però io tutte quelle che ho avuto erano 2 litri. Adesso questa non lo so perché non l'ho misurata, ma dovrebbe essere 2 litri anche questa, occhio e croce. Praticamente messa a fianco alla mia ne vince un palmo, dai, 20 centimetri. Comunque già la misuro, già mi tolgo la soddisfazione, mi porto il metro appresso e che questi metri li compro, cazzo, mi spariscono, li compro e li spariscono, quelli da 2 metri, quelli che ci allungano, poi non so dove cavolo finiscono. Io a volte in macchina tengo anche quelli di bricco, come di carta, non c'è mai, no? Arrotolati nel porta oggetti, può sempre servire. Cristian, avanti. No, ancora c'è la carta. Però c'è la carta. Non ho capito, chi c'era deficiente vicino a te? No, c'era, adesso.